la versione di Oscar Giannino. This is the end. Buon pomeriggio cari ascoltatori di Radio 24, questo martedì 7 di ottobre, 16:36, primi 26 secondi qui dagli studi di Milano. Oscar Giannino vi saluta, vi ringrazia, l'indirizzo è la versione di Oscar @ radio24.it. L'argomento di oggi è un po' obbligato, dobbiamo inseguire le vicende economiche e della politica economica, quindi stamattina sapete che si è tenuto a Palazzo Chigi l'incontro tra il Presidente del Consiglio, il Governo e le parti sociali, prima i sindacati, poi Confindustria e le imprese, e abbiamo deciso, inciso, vi avevo preannunciato oggi Luca Ricolfi, invece Luca Ricolfi ci sarà domani, perché domani leggete la stampa a pagina 2 e 3 e vedrete di che cosa parleremo domani. Siccome hanno posposto l'uscita di un suo pezzo che mi interessa molto, abbiamo deciso di farlo naturalmente rispettando il fatto che prima lo facciamo uscire sulla stampa e domani ne parliamo. Ma oggi, chiusura dell'inciso, poiché con il governo sul Jobs Act, sulla decisione del governo assunta ieri sera di porre la fiducia sul testo della legge delega, è ovvio il perché domani c'è il vertice a Milano sul lavoro europeo e quindi il Presidente del Consiglio vuole arrivare con la certezza, con un atto di forza per così dire, sulla sua stessa maggioranza e innanzitutto sul suo partito, una cui parte insieme alla CGIL non è d'accordo con questo modo di procedere. Anche stamattina nell'incontro la CGIL con Susanna Camusso ha ribadito che il Presidente del Consiglio non l'ha affatto convinta sull'articolo 18 e sulla svolta che la CGIL come un pezzo del PD chiedono al governo di mettere in atto. Detto tutto questo, però, io mi sono chiesto chi mancava stamattina nell'incontro con il governo in previsione di tutto quello che deve avvenire, cioè del TFR che il Presidente del Consiglio ha ribadito vorrà mettere liberamente in tasca dei lavoratori che lo vorranno. Che cosa avverrà con i nuovi contratti? Oggi il Presidente del Consiglio ha aggiunto alle cose di cui si è discusso anche un incentivo, vedremo nella legge di stabilità perché come al solito i testi non ci sono, però un incentivo, un nuovo incentivo come quello del vecchio decreto Letta per l'assunzione a tempo indeterminato. Vedremo di che si tratta perché come sapete quello del decreto Letta del Giovannini dell'estate dell'anno scorso non ha funzionato, pensavano di fare 100.000 assunti a tempo indeterminato in più incentivando, appunto, cioè rendendo più conveniente alle imprese la trasformazione di contratti in tempo indeterminato invece che a tempo determinato, alla fine ne sono usciti solo 28.000. Però detto tutto questo mi sono chiesto chi è che mancava oggi? Beh, mancavano milioni di lavoratori. Come al solito, perché quando si parla del lavoro nel nostro paese, del sostegno sia alle imprese per assumere di più, sia dal reddito dei lavoratori che ne hanno poco, viste le alte tasse e i tanti disoccupati, ci si dimentica però che poi ci sono milioni di lavoratori autonomi. E allora la puntata di oggi è dedicata a sentire, visto che negli incontri non è prevista la rappresentanza di milioni di italiani che scommettono su se stessi e non hanno affatto le stesse tutele ovviamente dei lavoratori dipendenti, e non è una polemica con i lavoratori dipendenti, è semplicemente una polemica in nome dell'eguaglianza. Vi ricordate mesi fa quando ospitammo una professionista che sta facendo una battaglia pubblica perché è ammalata di cancro e lei non ha le tutele che sono riservate ai lavoratori dipendenti? Ecco, casi come questi dovrebbero fare riflettere. Allora, ci siamo detti, dedichiamo la puntata di oggi a sentire un pezzo della rappresentanza di questo mondo che è senza voce ma fa andare avanti l'Italia esattamente come il lavoro dipendente, e per ascoltare che cosa avrebbero detto oggi se fossero stati convocati, come non è avvenuto e non avverrà, come sempre, a Palazzo Chigi. E quindi è con noi Anna Soru, che è Anna Soru, è il presidente di ACTA, cioè l'associazione consulenti del terziario avanzato. Buon pomeriggio e grazie ad Anna Soru. Buon pomeriggio e grazie per averci invitato. Quanti sono quelli che stanno in ACTA e che tipologia di autoscommettitori su se stessi sono? Da noi ci sono i freelance, cioè i professionisti che lavorano principalmente per imprese e pubblica amministrazione, dagli informatici ai pubblicitari, ai designer, ai formatori, ricercatori, consulenti alle imprese a vario titolo. Il nostro universo di riferimento è abbastanza indefinito, non si hanno neanche dei numeri ben precisi. Sulla base di stime dovrebbero essere intorno al 1,5 milioni in Italia, poi quelli che si associano non sono moltissimi perché è un mondo che è difficile da associare. Oh, Allora, se stamattina fosse stati a Palazzo Chigi, che cosa avreste detto? Ma noi l'abbiamo scritto quello che avremmo detto al Presidente del Consiglio, gli abbiamo scritto una lettera breve in cui gli ricordiamo che siamo stati completamente dimenticati dal suo governo, sicuramente lo siamo stati in questo Jobs Act. Beh, diciamo che anche da quelli prima. Anche da quelli prima, sì, sì, ma diciamo che è un governo che ha dichiarato di volersi rivolgere ai nuovi lavori e in generale agli outsider, da un governo di questo tipo ci saremmo aspettati un'attenzione maggiore, perché noi siamo gli outsider per definizione. Soprattutto un governo che, Presidente del Consiglio, ripete sempre no apartheid, lui l'ha detto sulla tutela, esatto, ai licenziamenti, però no apartheid significa guardare tutte le tutele, non solo quelle al licenziamento. E mentre invece c'è proprio un'idea di universale, di tutela universale che ci esclude a priori, la tutela universale. Secondo quanto argomentato nel Jobs Act è una tutela che comunque verrà estesa al mondo del lavoro dipendente, quindi noi non abbiamo neppure il diritto ad acquisire queste tutele. Ma nell'estensione universale, per esempio allargando l'ASPI, il mini ASPI che era stato previsto dalla riforma Fornero e che oggi viene ampliato, il governo ribadisce 1,5 miliardi, forse 2 per ampliarlo. Ci siete anche voi nella tutela, no, a sostegno del reddito universale in caso di disoccupazione oppure no? No, noi non ci siamo perché verrebbe esteso anche ai collaboratori a progetto, ma non ai freelance. Quindi noi siamo esclusi comunque da questo. E, tra l'altro, quello che vogliamo è anche fare un po' di chiarezza, perché appunto nel dibattito si è parlato spesso di tutela universale della disoccupazione, ma appunto non è vero, ma anche su un altro punto, Renzi ha annunciato che avrebbe dato diritti a tutti, compresi alle partite IVA, per esempio ha parlato della tutela della maternità, che è l'unica che già abbiamo, mentre non è mai stato detto nulla sulla tutela della malattia. Lei ha ricordato Daniela Fregosi, noi stiamo facendo una battaglia insieme a Daniela Fregosi, è uno dei punti che vogliamo chiedere, è una tutela della malattia, quantomeno nelle situazioni di malattie gravi, conclamate e lunghe, quindi che ci impediscono di lavorare per lunghi periodi. Scusi, su questo la interrompo, perché a me sembra importante far riflettere chi ci sta ascoltando. Cioè, capite che qui non c'è nessuna polemica, perché secondo me è un errore quello che il mondo del lavoro fa, accettando le spaccature, i dipendenti contro gli autonomi e quelli che pagano le tasse contro quelli che non pagano le tasse. Qui stiamo parlando di gente che, ripeto, se si ammala, non avendo altro che il proprio reddito e niente tutele e nessun tipo a quel punto di copertura, capite come si fa ad accettare questa situazione estesa a centinaia di migliaia di persone come se fosse una cosa ordinaria, anzi come se fosse poi giusta oltre che ordinaria. Ecco, ma su questa battaglia precisa, cioè questa della copertura medica, almeno per le patologie più serie, appunto qui non stiamo parlando dell'influenza. No, non medica, tutela del lavoro, diciamo. Del lavoro, esattamente. Ma non avete mai avuto nessuna risposta? Ma diciamo che adesso qualcuno che ci ha detto che potrebbe agire in questo senso c'è, qualche politico inizia ad esserci, però nessuno ci aveva pensato prima e noi da tempo che questo lo chiediamo. Speriamo e contiamo di riuscire ad ottenerla, questa tutela qua, diciamo limitatamente appunto alle malattie più serie. E fra l'altro voglio far notare che non soltanto non c'è diritto a un'indennità degna di questo nome, ma addirittura c'è l'obbligo di continuare a versare i contributi pensionistici su un reddito che è necessariamente decurtato perché si lavora di meno quando si è molto malati e avendo una prospettiva di pensione che è assolutamente incerta, perché quando uno ha una malattia molto seria non è detto che ci arrivi alla pensione, però appunto non c'è nessuna sospensione, l'INPS non concede nessuna sospensione dei contributi neanche in queste situazioni, l'INPS lo si paga anche se si muore, quindi c'è anche quest'altro aspetto da considerare. Ma tornando agli altri elementi dell'esclusione, noi sappiamo che questa disattenzione del governo rischia di costarci veramente tanto, perché non soltanto siamo stati esclusi dai famosi 80 euro, ma abbiamo anche la prospettiva di un aumento dei contributi pensionistici, che sono già altissimi. Noi già adesso versiamo il 27%, come lei sa, sono più di quello che versa un lavoratore dipendente, e questi aumenteranno al 29% già col 2015, per arrivare poi al 33% con gli anni a seguire. Questo è un provvedimento, se non si interviene, e scatterà in automatico, quindi noi vorremmo che già nella finanziaria fosse previsto qualche cosa per bloccare questo incremento. E per ultimo, il governo ci ha fatto intendere che interverrà in nostro favore con la delega fiscale, ma le prime indiscrezioni parlano di un aumento dell'imposta sostitutiva nel regime dei minimi, che passerebbe dal 5 al 15%, quindi anche su quel fronte non intravediamo niente di positivo. Allora, andremo poi alla questione degli iscritti alla gestione separata dell'INPS, che per me è uno scandalo. La versione di Oscar. Eccoci qui tornati in diretta. Alcuni sbagliano indirizzo, dicono che sono un lecca qui di Berlusconi, ma non so, questo forse è un ascoltatore che si è perso un po' di anni, però no, i più stanno al tema. E sul tema c'è qualcuno che dice, per esempio Alessandro, lo prendo per tanti, che dicono, ma mica può Renzi può fare tutto quello che non è stato fatto in 20 anni. Certo, Alessandro, hai perfettamente ragione da questo punto di vista, ci mancherebbe altro. Altra cosa è quella di far riflettere un po' tutti su pezzi di mondo del lavoro che restano oggi per una disattenzione decennale, esclusi da alcune tutele. Alcune tutele, ecco. Poi c'è un altro blocco invece di SMS che dicono, beh, però non è che potete chiedere per i lavoratori autonomi le stesse tutele dei lavoratori dipendenti. No, ma non si tratta di chiedere le stesse tutele, qua si tratta di alcune cose elementari che però mancano, alcune cose elementari che però mancano, perché poi voi capite che se i giusti interventi per tentare di ridare un po' di reddito in tasca ai lavoratori di decidere di reddito più basso, tipo gli 80 euro, vanno solo al lavoro dipendente. È un bene che ci vadano, però poi ci sono milioni di italiani che non sono in quelle condizioni, oltre agli incapienti, oltre ai pensionati e così via. Si tratta di avere una visione generale e complessiva, non si tratta di dire Renzi fa il mandrake e pensa tutto tu da solo, questo no, però si tratta anche di uscire da una prospettiva per la quale da decenni a quegli altri noi non diamo nessuna attenzione, mentre sui sindacati confederali lavoro dipendente sono il centro esclusivo del dibattito, esclusivo, la mia obiezione è che siano esclusivi, non che non abbiano pieno rispetto, diritto al pieno rispetto, cioè, questo è un altro paio di maniche, perché altrimenti capite che è una società che va avanti a pezzi, ciascuno in forza della rappresentanza storica che ha, chi non ha avuto una forte rappresentanza storica continuerà a non averla e i suoi problemi, Parlamento e Governo continueranno a non vederli. Dopodiché un altro bel pezzo di blocco di mail è a nome dei più deboli tra i lavoratori autonomi, cioè le finte partite IVA, coloro che i padroncini tengono solo con la partita IVA invece che assumere come lavoro dipendente, eccetera eccetera. Verissimo. Per questo, però, per questo, poi vedremo il testo, Renzi e il governo promettono nella legge delega, vedremo poi i decreti delegati, di intervenire ipersemplificando i contratti a tempo, proprio al fine di tentare di inaridire questo serbatoio di finti lavori autonomi. Vedremo, più volte è avvenuto nel tempo, questa volta il governo dice di essere decisissimo, ha identificato diverse tipologie di questi contratti da eliminare. Ma qui stiamo parlando invece di una fascia, Anna Soro, perché molti pensano che lei rappresenti in buona sostanza gente che ha un reddito di centinaia di migliaia o comunque di 100, 120, 130, 150, 200 mila euro l'anno, è così? Magari, no, assolutamente no, purtroppo. E, fra l'altro, per rispondere anche a alcune delle domande che sono state poste, voglio ricordare che la nostra pressione fiscale previdenziale è analoga se non superiore a quella dei dipendenti, è in questo contesto che noi diciamo che delle tutele devono essere assolutamente assicurate, perché se noi avessimo una pressione fiscale previdenziale molto bassa potremmo forse anche provvedere a delle assicurazioni private, mentre invece non abbiamo più risorse per pagarci altro, quindi anche un'assicurazione sanitaria privata è troppo costosa per le nostre tasche, per lasciar perdere poi tutto il discorso pensioni, che è un vero buco nero e forse in questo momento nel caso di di affrontarlo. Oh, nel frattempo l'aumento al 33% di aliquota da pagare alla gestione separata, cioè significa gli autonomi che pagano più del lavoro dipendente, chiaro questo? Rifletteteci un secondo, più, io non sto dicendo che devono pagare meno, qui pagano di più non avendo uguali tutele, capito? Allora, questo non mi sembra molto giusto. È avvenuta l'abolizione intanto dell'aumento previsto per l'aliquota della gestione separata? Assolutamente no, ed è quello che chiediamo. Cioè, ogni anno, cioè sugli ultimi due anni è stata sospesa, però non è stata ancora abolita, quindi rimane sempre come una spada di Damocle e ogni anno bisogna cercare di ottenere una sospensione. Vorremmo che venisse eliminata una volta per tutta. Anche perché sennò il governo può attuarlo con un mero provvedimento amministrativo, poiché no, è in automatico, non c'è bisogno di nessuno, cioè proprio se non si interviene. Ce l'abbiamo sulla testa. Sentiamo esatto. Giuseppe da Belluno come la pensa. Giuseppe, prego. Buonasera Giannino, complimenti. Grazie. E complimenti anche dal suo ospite. Due minuti per esprimere un concetto e far ragionare i radioascoltatori. Allora, questo governo, come quelli precedenti, stanno distruggendo sistematicamente la piccola e media impresa italiana, compreso le partite IVA. Allora, con la liberalizzazione, ad esempio, la chiusura dei piccoli a vantaggio dei grandi, con tutte le varie manovre che sono state fatte, sono tutti concordi che l'Italia è diventata un grande paese economico per merito delle piccole e medie imprese e adesso le stanno uccidendo in maniera sistematica. Anche il TFR, ad esempio, che sembra proprio una presa in, posso dire presa per il culo, cioè è come che lei, è come che io prendessi i soldi in prestito dal dipendente dei suoi risparmi e gli dico te li do adesso e sono suoi in più al mese. Giuseppe, su questo ne parleremo un'altra volta, perché siccome senza testi è difficile capire, oggi il Presidente del Consiglio ha ribadito, lui TFR vuole darlo come facoltà libera ai dipendenti. Naturalmente ci sono un mucchio di problemi, perché lo Stato non accantona quello per tutti i dipendenti pubblici, per esempio, quella è una grave spesa. Poi in più lui dice che non c'è un euro in più di tasse per coloro che lo incassano, quindi non va ad aliquota marginale ma solo al 23%, levano l'11% sul rendimento annuo, da vedere. Poi per le piccole imprese lui dice che non c'è un aggravio perché le banche anticipano tutto, significa che le banche anticipano davvero a un tasso annuale inferiore al 2%, cioè uguale a quello della rivalutazione che fanno le piccole imprese TFR, vedere per credere. Chi la mette la garanzia? Lo Stato? Vedremo tutte queste cose in un'altra puntata. Sentiamo Enzo da Caserta. Enzo, prego. Salve Oscar, buonasera. Volevo solo mettere in evidenza quell'aberrazione che deriva dalla legge 122 del 2010. Che dice? Parlo di contributi non cumulabili perché ha versato in casse differenti. Sì. Faccio un esempio. No. Prego. Fallo perché chi non lo sapesse dà l'idea. Nel momento in cui ci troviamo davanti a un lavoratore che ha prestato la sua prestazione lavorativa per 18 anni, per esempio, esatto, versando contributi INPS, per motivi più svariati ha cambiato lavoro, è entrato a far parte dello Stato, quindi contributi INPDAP, lui non può ricongiungere questi contributi in maniera gratuita, ma deve pagare. E a volte ci troviamo davanti a versamenti di assegni di centinaia di migliaia bravo, di euro. Bravo, bravo, questo è un problema irrisolto, ingiustificabile se non per l'incomunicabilità delle banche date e dei meccanismi, si chiamano attuariali, insomma, per quali le diverse casse naturalmente gestiscono le risorse dei contributi anno per anno. È una cosa incivile, lo dico in due parole. Marco da Roma, prego Marco. Sì, vado rapido. Veloce, sì. Che sono rimasti pochi minuti. Niente, intanto, vabbè, siamo lì di complimenti. Ma no, andiamo tutto. Poi, niente, volevo dare comunicazione ufficiale che la categoria degli agenti di commercio è defunta. 35% di IRPEF, 7,50 che diventerà 8,50 di Enasarco. Andiamo verso il 25% di INPS. Io mi domando, ci fanno o ci sono? Perché non lo so, questa è una domanda di quelle su cui far riflettere il lavoro dipendente e tutti gli altri, tutti noi. Siamo uniti, non ci dividiamo insultandoci, chiediamo alla politica e ragioniamo. Continuate con Radio 24, appuntamento con me a domani, grazie ad Anna Soru.